Senti, Daniele da Milano fa una bella osservazione, dice: ma secondo voi se Fabregas fosse rimasto a Barcellona con Xavi davanti, sarebbe diventato il campione di oggi? Beh, forse no. Io credo invece di sì, ma in maniera molto, molto semplice. Fabregas è veramente un grande giocatore, come un grande giocatore Xavi. È possibile che avrebbe costretto gli allenatori, poi sai, dipende anche molto dalle sensibilità degli allenatori, dipende molto a quale allenatore va in mano, cioè Fabregas sarebbe andato in mano a Rijkaard prima che a Guardiola. Guardiola, nel senso che nel 2006 c'era Rijkaard ad allenare il Barcellona ed era un Barcellona che giocava con Eto'o, con Henrik Larsson, giocava con Deco e a centrocampo pensate aveva Edmilson e Van Bommel con Thiago Motta in panchina, cioè era una filosofia diversa. Ora, Xavi e Iniesta quella sera a Parigi erano tutti e due in panchina e Fabregas invece era in campo ed era in campo già da protagonista, quindi io ci andrei piano, forse Xavi non avrebbe giocato e Fabregas avrebbe giocato anche perché Fabregas è davvero maturato decisamente prima, ma non prima di Xavi, prima di quasi chiunque altro. È vero.